9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 3 agosto, qui della versione di Oscar, da Oscar Giannino. Questo è, diciamo, la puntata che prelude poi a 2 settimane, 10 giorni in tutto di pausa per quello che mi riguarda, e tornerò con voi il lunedì 20 di agosto. Nel frattempo lascio il testimone a Gianfranco Fabi, l'ex direttore di Radio 24, quindi appuntamento il 20 con me, ma vi terremo, come è ovvio, sempre quotidianamente compagnia Radio 24, e anche questo appuntamento non sarà la versione di Oscar, ma sarà 9 in punto per 10 giorni, 10 appuntamenti, e poi da lunedì 20 sono qua. Nel frattempo vi lascio l'indicazione, naturalmente, di continuare a leggere il libro Sudditi e di continuare a compulsare i nostri 10 punti sul sito www.fermareildeclino.it. E naturalmente lì potete scrivere, c'è un sito Facebook, potete scrivere a me a oggianinoyahoo.com. Continueremo a lavorare naturalmente in tutto il mese di agosto, dandovi poi appuntamenti per settembre. Il tema della puntata di oggi è naturalmente obbligato. All'indomani della fortissima delusione che i mercati hanno mostrato alle parole pronunciate alla conferenza stampa di ieri delle 14.30 del presidente della BCE Mario Draghi, l'interrogativo da porsi è cosa sia avvenuto nei giorni precedenti, cioè nei giorni che intercorrono dalla dichiarazione il 25 luglio londinese di Mario Draghi, che ha ridato speranze, ha tirato sui mercati, ha abbassato gli spread, perché Mario Draghi aveva detto l'euro è irreversibile, per la difesa dell'euro faremo tutto quello che è necessario e vedrete che basterà. E quindi i mercati avevano capito che nell'incertezza, nei tempi lunghi dello scudo salva spread, e cioè nell'attesa che si pronunci a metà settembre la corte di Karlsruhe tedesca, ne abbiamo parlato più volte, intanto la Banca Centrale Europea, nei limiti del suo mandato, come diceva da Londra Mario Draghi, ma convinta che trattato e statuto della BCE alla mano fossero in questione in questo arroventato agosto, non solo e non tanto la stabilità della moneta, ma la stabilità finanziaria dell'intera euroarea, e che quindi fosse competenza della BCE intervenire in tutte le modalità necessarie. Ecco che dopo questi giorni di attesa, consiglio della BCE che inizia l'altro ieri sera, e ieri in conclusione le parole di Draghi sono invece sembrate una marcia indietro. Gli spread sono risaliti, quelli italiani sopra quota 510, sopra quota 610 quelli spagnoli, e allora la domanda diventa: ma ha vinto la Bundesbank? Che cosa è successo in realtà? Nelle ricostruzioni che trovate su tutta la stampa, non solo italiana ma europea, in realtà nel giro di tavolo al Consiglio europeo intorno a due punti centrali: primo, l'euro lo consideriamo ancora irreversibile; secondo, andiamo avanti con le possibilità aperte alla BCE di acquisti dei titoli. In realtà, dalle ricostruzioni di tutti i giornali, sembra che nel giro di tavolo 16 l'abbiano pensata esattamente come Mario Draghi. L'unica eccezione è la cautela che più volte, pubblicamente, molto rumorosamente, Widmann, il presidente della Bundesbank, della Banca Centrale Tedesco, avrebbe ribadito anche al tavolo della BCE. Però capite che 16 a 1 non è esattamente essere isolati. Tuttavia, nelle parole ieri pronunciate da Mario Draghi, in cui è andata delusa l'attesa di chi aspettava interventi immediati, la domanda da porsi resta comunque, per cercare di capire nelle prossime due settimane, esattamente quelle in cui io non ci sarò ma ci sarà Fabi, che cosa dovete aspettarvi e quali sono i limiti precisi nei quali dovrà, secondo il mercato, oggi deluso, anche stamattina lo avete sentito da Deborah Rosciani, il mercato comincia male, cosa il mercato si attende e che cosa invece è legittimo attendersi, per così dire, per i risparmiatori, per i contribuenti italiani. Dobbiamo aspettarci forse che da un giorno all'altro, se restiamo sopra quota 500, il governo metta mano a nuove manovre? Non sembra averne l'ossigeno politico, non sembrano, ieri lo stesso Mario Monti ha detto noi comunque non chiederemo aiuti, perché Draghi ha dovuto ridire, gli interventi li faremo in coerenza però a le procedure secondo le quali i governi devono prima chiedere aiuti al combinato, risposto FSF-ESM. Ecco, intorno a tutti questi interrogativi, intorno alla domanda che cosa attendersi, che cosa sia avvenuto, due ospiti in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo con noi Angelo De Mattia, che moltissimi conoscono e scrive molto sui giornali di Banca Centrale, ma perché è stato per molti anni in Banca d'Italia, dove ha ricoperto incarichi importanti. Io lo conosco e lo apprezzo da molti anni per l'equilibrio e la competenza, senza mai esagerare e con un linguaggio piano, con cui analizza tutti questi problemi. Grazie, buongiorno Angelo De Mattia. Grazie a voi, grazie per le sue parole. E Tobias Biller, che conoscete benissimo, corrispondente per l'Italia al Frankfurter Allgemeine, io inizierei da lui, oltre a salutare, chiedendogli che impressione hai e che cosa si legge stamattina sui giornali tedeschi rispetto alle parole di Draghi di ieri. Ha vinto la Bundesbank, oppure, come vuole la stampa, la Bundesbank è rimasta isolata e quelle di Draghi sono parole diplomatiche? Buongiorno intanto. In Germania prevale ancora il sospetto di fronte alla Banca Centrale Europea. Non c'è lo strillo vittoria, vittoria. Dall'altro rimangono i dubbi su quello che deve fare l'Europa o l'Unione monetaria per rimanere insieme. Quindi, a mio avviso, sarebbe molto meglio investire tutti questi sforzi di discussione nel pensare su cosa bisogna fare nell'economia reale per tirare l'Europa fuori dalle secche, e specialmente l'Italia e la Spagna, perché se l'Italia è fuori dalle secche certamente si finisce il gioco del domino, la crisi sembra governabile, ma l'Italia al momento non cresce e tutti parlano dello spread e dicono Monti ha fatto tutto, adesso lo spread deve scendere, ma lo spread descrive il rischio di un titolo decennale fino all'anno 2022 e in Italia dopo Monti, vuol dire dopo aprile 2013, ben 9 anni prima, c'è assolutamente il buio. Allora io non posso biasimare qualcuno che sta sul mercato dicendo ma se non sappiamo dove finisce l'Italia, se va avanti il programma delle riforme, se ci sarà un governo stabile o se tornano a avere un governo all'anno, se non c'è una chiarezza su questo, perché biasimare qualcuno che specula su questa debolezza o su questo dubbio? Intanto sarebbe a mio avviso molto meglio fare altri sforzi per garantirsi la crescita, da un lato nell'economia reale e nell'industria, ma dall'altro anche manca totalmente una discussione sulla competitività del settore turistico, che come ha detto il ministro del turismo stamattina su questa radio ha perso quota di mercato. Anche da lì si può innescare una crescita o perdere la battaglia della crescita. Invece tutti dicono la banca centrale deve risolvere il problema per noi. Ma la banca centrale ha solo soldi, ma non può far vendere una macchina italiana in più e non può fare vendere un pacchetto turistico o un pernottamento in più. Molto bene. De Mattia, lei invece che impressione ha? Il giro di tavolo, l'isolamento su cui oggi insistono le ricostruzioni della Bundesbank, a cosa prelude? O comunque, non è più efficace forse il freno a mano che la Bundesbank ha visibilmente tirato con conseguenti parole di Draghi e frenata di ieri? Ma io penso che c'è stata un'eccessiva enfatizzazione delle dichiarazioni londinesi del presidente della BCE da parte della stampa, soprattutto perché, come lei ha ricordato bene nella premessa, Draghi ci ha tenuto più volte in quella dichiarazione, e poi l'ha fatto anche ieri, a ricordare che l'intervento della BCE sarebbe stato effettuato dentro il mandato, e poi ha collegato la elevatezza degli spread a una sorta di ostacolo alla trasmissione degli impulsi della politica monetaria che bisognava rimuovere, però in questo stretto ambito. Io penso che invece ieri, al di là della delusione dei mercati, qualche passo avanti sia stato compiuto, non solo per il 16-1 di fronte alle forti riserve che Weidmann ha confermato, quindi non solo per questa convergenza per la quale, come si ricorderà, Draghi ha detto nella conferenza stampa non c'era motivo di temere, perché ciò che io ho espresso a Londra era ben conosciuto dai miei colleghi. Ripeto, non solo per questa convergenza, ma anche perché, a mio parere, dati i limiti del trattato, con ieri Draghi ha spinto, pur con le condizionalità che sono state precisate, l'azione della BCE ai limiti del trattato, cioè non ha superato, ma stiamo lì per superare il divieto di finanziamento monetario del tesoro, che purtroppo è lì. Certamente è un divieto che, di fronte alla catastrofe, quando venisse messa in forza decisamente la stabilità monetaria e finanziaria a cui lei faceva riferimento, dovrebbe essere superato per una ragione di forza maggiore, perché ci troveremmo nello stato di eccezione e non varrebbe difendere la stabilità monetaria quando poi la moneta si frantuma, si disintegra. Però Draghi l'ha portato fin lì con grande abilità. E naturalmente non è vero che è stata una decisione solo teorica, è stata decisa, come lui ha detto, una linea guida per misure forti. Quello che dovranno fare i comitati all'interno della BCE sono analisi rapide per l'attuazione di quella linea, cioè non siamo di fronte alla solita riunione che si conclude convocando un'altra riunione, ma una riunione che si conclude attendendo la pratica visione della realizzazione di questa linea guida da parte dei comitati. E io sono convinto che se la situazione si dovesse ulteriormente aggravare, il lavoro di questi comitati sarà ancora più rapido e la BCE potrà decidere anche prima di settembre. Tutti dicono settembre, io penso che potrà decidere anche prima, anche prendendo una deroga rispetto a questo collegamento che ha previsto tra il Fondo Salva Stati, l'ISM, eccetera. Pillar, ti chiedo una valutazione, se la vorrai dare, però di fronte a titoli come quelli che oggi si leggono su alcuni quotidiani, ce n'è uno in particolare che titola con un carattere molto forte: Quarto Reich, i no della Merkel e della Germania rimettono in ginocchio noi e l'Europa. Vabbè. però non è tanto questo il commento che ti chiedo, questa è una nota di colore. Ti introduciamo nella nostra riflessione un aspetto che forse annoierà qualcuno che ci ascolta, ma talvolta i fenomeni economici bisogna anche tentare di spiegarli nella loro tecnicalità. Dietro gli andamenti della volatilità, del rischio sovrano, gli spread, da un anno e mezzo a questa parte, da un anno soprattutto a questa parte, tra l'altro stiamo andando il 5 di giugno è l'anniversario della lettera che la BCE mandò all'Italia con i compiti assegnati all'Italia, quello che poi fece dire a Tremonti che era una lettera scritta in italiano da un italiano. Poi insomma la crisi del governo Berlusconi nacque così, perché agli occhi dei mercati non eravamo oramai che il detonatore dell'euro. Allora, a un anno di distanza, dietro ci sono i fondamentali, come Tobias ci ricordi sempre, i fondamentali dell'economia reale, di varie di competitività, di produttività, eccetera. Però c'è anche un fenomeno che ha a che fare con gli andamenti di cambio internazionali, cioè da un anno e mezzo a questa parte noi abbiamo visto, è vero che l'euro non sta più a 1,45 sul dollaro, però sotto 1,21-1,22 non scende. E diciamo la verità, per essere una moneta che viene descritta da un anno e mezzo come sulla soglia dell'esplosione, non è poi questa gran discesa. Se si guarda il mercato si capisce che c'è un grande interesse convergente da una parte dell'Asia, della Cina, degli operatori del mercato, cioè Banca Centrale Cinese, grandi fondi che operano sui mercati dei cambi di quella origine, e dall'altra parte dell'Oceano Atlantico il mondo americano, anche qui grandi operatori di mercato, ma anche Fed. L'interesse di entrambe le piattaforme continentali, diverse da quella europea, è quella di non regalare un euro che scende e che diventa troppo competitivo alle esportazioni europee, tedesche innanzitutto, ma poi anche italiane. E questa è la linea, diciamo così, che spiega come mai l'euro non scenda più di tanto, perché dall'Asia e dall'America si comprano quantità massicce di euro per tenere elevato il suo livello di cambio. Naturalmente chi compra tutti questi euro li deve reimpiegare, perché non è che se fossero dollari uno li utilizza sui mercati delle commodities, eccetera eccetera. Dovendoli reimpiegare si precipita a comprare molte volte titoli, e titoli tra quelli a AAA, naturalmente quelli tedeschi. Questo aspetto, che secondo me è un aspetto, abbiamo visto con un po' di amici economisti, ha una correlazione molto forte tra, per esempio, i tassi negativi che pagano i titoli di Stato tedeschi sui diversi rendimenti e l'andamento del cambio. Forse avrebbe potuto essere anche affrontato in un altro modo, oltre che col salva spread e così via. Esattamente come in Cina e in America, dove non è detto che tutti gli operatori del mercato siano ammessi a comprare tutti i titoli di debito pubblico, cioè ci sono dei titoli per i quali ci sono dei limiti sia al tipo di soggetti che per tipo di durata, vengono inibiti all'acquisto. In Europa avremmo potuto riflettere sul fatto che, visto che la forbice dello spread tra noi, la Germania, la Spagna e la Germania si spiega anche per questi andamenti di cambio internazionale, avremmo potuto dire di comune accordo decidiamo che ci sono dei limiti all'acquisto di titoli pubblici tedeschi, stante il fatto che poi l'Europa può continuare a offrire tanti altri titoli a AAA, quelli dell'SM, quelli dell'FSF, eccetera, e di altri paesi che hanno i titoli ancora a AAA come la Germania. Oppure, in alternativa, se i tedeschi non fossero stati favorevoli, dire però una parte dell'aggio che voi portate a casa, del vantaggio che portate a casa per effetti di questa politica di sostegno al tasso di cambio dell'euro da parte degli americani e cinesi, dobbiamo inventarci un modo per cui non vadano esclusivamente a vostro vantaggio. Secondo te questo ragionamento, Tobias, che è un ragionamento per così dire eurocooperativo, ma senza passare attraverso i contributi che ogni paese deve dare agli eurodeboli, che sono quelli che poi mandano in crisi il meccanismo, ai cui giustamente i virtuosi tedeschi sono contrari, è infondato oppure potrebbe essere interessante? Però ti prego, qualche nota di colore anche su chi pensa che ci sia il quarto Reich tedesco, devi darmela. Sì, io penso che sia esagerato certamente completamente, perché la Germania non dice che deve comandare agli italiani, solamente dice che abbiamo fatto un patto con certi principi. Il principio di base è l'euro deve essere stabile, anche stabile come il marco o come altre monete del nord, e non deve diventare una lira come la lira degli anni 70-80. e mi spiace se qualcuno pensa che mi ripeto, ma divieto di comprare titolo di Stato fa parte di questo concetto. Se adesso si dice dobbiamo superare questo, questa regola del trattato, certamente per i tedeschi è un segnale di allarme. Così se voi dite bisogna salvare l'euro, proprio questo è il punto di rottura dell'euro, perché non si può dire ai tedeschi adesso grazie a Dio è diventato una lira. Ma che faranno? Voi pensate adesso, poi dopo questo elemento, dopo una rottura su questo punto, andranno avanti a finanziare così felicemente l'Italia, la Grecia ed altri per salvare questa lira, questa euro-lira? C'è un certo dubbio su questo. E poi altro punto è che tutti hanno paura di avere tassi di interesse alti, se vogliono assicurarsi tassi di interesse alti bisogna solo andare avanti su questa strada di emettere ancora altra moneta e di comprare titoli di Stato, così tutti sapranno che dopo un po' ci sarà una bella inflazione e così i tassi di interesse dell'Italia andranno ancora in su. Ricordiamoci, quando l'Italia ha voluto entrare nell'euro, i tassi di interesse di un BTP a 10 anni erano a 12%, 14%, e qualcuno ci ha anche guadagnato abbastanza sopra, e poi sono scesi a questi limiti, a questi livelli minimi che c'erano dopo per 10 anni, e l'Italia si è fermato con queste riforme che sono state promesse dopo. Poi su questa strada dei fondamentali ci sono delle piccole eventi temporanei, e così riguardo questa cosa che in Germania i tassi di interesse al momento per titoli di Stato sono così bassi e in Italia sono abbastanza alti. Se l'Italia va avanti su questa strada che è solo cominciato Monti, non c'è un problema, perché vediamo che nel 2011, con tanti strilli di questi su questi spread sui titoli di Stato, è stato così che alla fine dell'anno l'Italia ha speso 0,3 punti percentuali del PIL in più dell'anno prima per i titoli di per gli interessi, ha speso per interessi meno nel 2008. Così al momento tutto l'effetto dello spread in Italia è governabile. Sì, ma perché sai che noi abbiamo una scadenza di 7 anni dei titoli, si vedrà più avanti, non è che ci lamentiamo per niente, insomma, perché tieni conto che alle imprese quei 500 punti base di differenza le banche li applicano, quindi altro che se l'economia reale se ne accorge. È un veleno che è molto molto forte per l'economia reale, ma per lo Stato ancora governabile. Ma allo stesso momento in Germania certamente lo Stato non se ne approfitta con centinaia di miliardi di euro all'anno, è un piccolo aiutino, e certamente è un aiuto un pochino più grande per l'economia reale. Allora perché non ci si sbriga a mettere a posto le cose? Allora tu dici fate i compiti, che dice De Mattia invece? Ci sono anche modalità al di là dell'aiuto taglia spread che mette sempre in crisi di fronte alle opinioni pubbliche su rive contrapposte i paesi, che hanno a che vedere anche con fondamentali tipo il cambio, come quello che ho richiamato prima, secondo lei? Ma ogni misura si proietta fino al limite di dover dire vabbè, allora questa decisione bisogna prenderla a maggioranza. Naturalmente adottare una decisione a maggioranza del consiglio direttivo della BCE apre a una strada che si sa da dove inizia, non si sa dove finisce. L'ipotesi sua, caro direttore, a me sembra ingegnosa, ma anche questa poi alla fine, con tutte le aperture a una convergenza, a una mediazione, rischia di approdare poi a un momento nel quale bisognerebbe decidere per una misura, direi a quel punto dirigistica, in assenza di una coerente disponibilità della Germania. allora lì bisognerebbe riflettere lungamente. Altre vie possono essere quelle di tentare un accordo con le grandi aree monetarie, con l'area del dollaro, dello yuan, dello yen, che altre volte si sono tentate. Esiste poi un problema molto importante per questo aspetto che lei ha citato, cioè la politica valutaria, che la gestione del cambio, le decisioni sul cambio non sono di competenza della Banca Centrale Europea, ma sono di competenza dei governi. Quindi in questo caso quelle lacerazioni o potenziali lacerazioni che vediamo possibile all'interno della BCE, essendo la materia di competenza dei governi, sarebbero ancora più probabili. In ogni modo, questo non significa che dalla prospettazione di provvedimenti, di iniziative del genere ci dobbiamo allontanare, ma poiché si parla in continuazione del rispetto del trattato, voglio dire che il trattato poi vede alla sua base non tanto le differenziazioni importate dai singoli paesi o dalle singole banche centrali, ma mira a quella che tante volte è stata definita come la single voice. Ora, noi vediamo in continuazione anche nella stampa italiana, tedesca, parlare a nome della Bundesbank. Ecco, qui siamo di fronte a una violazione del trattato, perché i governatori che siedono nel consiglio direttivo rappresentano se stessi. In base al trattato non possono rappresentare né i paesi né le banche centrali, né un'ideologia delle banche centrali. E questo è lo spirito e la sostanza delle intese che furono raggiunte quando si diede il via alla prima fase dell'unione economica e monetaria, e queste intese andrebbero rispettate. Non si può assistere in continuazione a un'opera di guardiano del trattato, di come si potrebbe chiamare nomofilachia europea da parte degli esponenti della Bundesbank, e poi trovarli in difetto in questa posizione che assume. Si potrebbe dire: guarda che tu stai facendo un rilievo formalistico. Non è così, non è affatto così, perché essere rappresentanti solo di se stesso in un organismo significa essere liberi da condizionamenti che possono venire dai luoghi di provenienza. Quanto alla necessità di muoversi, io ritengo che al di là della formula stantia dei compiti a casa, all'Italia si prospettino oggi due iniziative importanti: quella di intervenire sul debito attraverso misure di taglio del debito stesso, utilizzando la massa di progetti che sono stati presentati a riguardo. È un'iniziativa in sede europea per la Golden Rule. A livello europeo noi dobbiamo porre questo problema. Non ci possiamo limitare semplicemente a dire: guardate, gli spread sono provocati da altri, dal contesto europeo. Il contesto europeo influisce certamente sugli spread, influisce per una certa quota, però noi dobbiamo completare quello che abbiamo iniziato a fare, anzi più che completare, svilupparlo più consistentemente. Esatto. Quindi investimenti che servono per la crescita, cominciare da quelli infrastrutturali che sono fuori dalla linea di quelli che sono rilevanti per i tetti di diminuzione del debito pubblico. Io ringrazio per questa prima parte Angelo De Mattia e Tobias Piller. Come avrete capito, cari ascoltatori, le prossime due settimane saranno con ogni probabilità molto molto calde sul fronte dei mercati e dei rendimenti del titolo pubblico. Io non posso che condividere la conclusione di Angelo De Mattia sul fatto che l'Italia sa comunque, avrebbe dovuto sapere da prima di questa crisi, a maggior ragione nella crisi, che deve adottare un meccanismo che sia credibile agli occhi dei mercati mondiali, che fanno bene a diffidare, per abbattere di una quota significativa in tempi ragionevoli e, ripeto, credibili, non annunci e chiacchiere che vengono poi immediatamente scartate dai mercati mondiali, per abbattere di quote consistenti il debito pubblico. Ci sono diverse strade, diverse proposte, sapete, e io ribadisco, la mia è quella di non mettere mano in nessuna maniera, tantomeno forzosa, al patrimonio degli italiani. In questo 2012 gli italiani hanno una compressione del reddito disponibile per i consumi che non ha eguali dal secondo dopoguerra, siamo al meno 3%, meno 2, 9%, si intaccano già i patrimoni per il sostegno di livelli di reddito disponibile in fortissima contrazione. La stessa cosa riguarda l'impresa, che lo Stato e la politica nuova che arrivi si dimentichi manovre di prestito forzoso e di patrimoniale. Lo Stato deve imparare ad adottare procedure credibili per cedere del suo, perché lo Stato è lui che ha fatto il debito, ha l'attivo, e su questo, quando cambierà marcia su questo, forse i mercati avranno buone ragioni per credere che in Italia qualcosa di davvero serio si è messo in moto. Questa è la mia personalissima opinione. Il punto di fondo della credibilità italiana sta in questa roba dell'abbattimento del debito. Uno sta in seconda cosa, cioè conto economico pubblico, ogni singolo euro di meno spesa retrocessa che paga troppe tasse. E questo tema è l'uso deriso, vilipeso, calpestato da tutti i governi di questi anni, qualunque siano stati i loro colori, e quindi di centrodestra per la parte permanente del tempo in cui hanno occupato il potere. Quei due punti là sembra che siano colpa degli altri, e invece è l'esatta misura di un paese che non sa affrontare le sue priorità. Cosa vogliamo parlare? Dell'ILVA di ieri? Abbiamo seguito la vicenda. Ieri è successo quello che è accaduto, leggete sui giornali, nelle proteste dei sindacati e nelle proteste contro i sindacati di parti variopinte che ritengono che i sindacati fanno male a difendere i posti di lavoro. E quindi ecco qua le ragazze, le studentesse, dietro cui impazziscono i giornali, le giovani ventenni che rompono con l'APE perché basta difendere il lavoro in nome della morte. Io veramente mi interrogo, perché naturalmente nell'esplodere di questo tipo di irresponsabilità, tradotto invece per pensosa capacità di sapere interpretare la protesta, certo, un paese decide di non avere più l'industria e dopodiché convertiremo tutti con denari pubblici, ovviamente diventeremo tutti dipendenti pubblici per bonificare il territorio. E certo, una volta che l'avremo bonificato non ci saranno più attività produttive. Vi sembrerà paradossale? Guardate che è pieno di casi ILVA l'Italia. Vogliamo parlare della centrale del Mercure ubicata a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, che è una centrale di cui da moltissimi anni si è deciso il recupero di una metà, di una sezione per 110 megawatt alimentata a biomasse. Allora, l'iter autorizzativo di questa centrale, che significa più di 100 persone direttamente occupate e quasi 1000 nell'indotto, l'iter organizzativo per ovviamente disporre la conversione a biomasse di fronte alle più che legittime preoccupazioni che gli impianti non siano in grado poi di abbattere i fumi e la emissione di sostanze dannose, l'iter autorizzativo è in corso dal 2001, da 11 anni. La prima autorizzazione è stata rilasciata alla provincia di Cosenza il 2 settembre del 2002, e già erano avvenute 3 conferenze dei servizi con tutti gli enti interessati, l'ente Parco del Pollino, la regione Calabria, l'AS di Castrovillare, eccetera eccetera. Dopodiché nel 2005 la Calabria chiede la valutazione di incidenza ambientale perché per tutte le ragioni. Al 2007 l'Enel ripresenta tutto, perché integra la sua documentazione con la richiesta di rilascio della cosiddetta autorizzazione integrata ambientale, perché nel frattempo di anno in anno cambia la regolamentazione. Dopodiché arriviamo al 2009, l'ente Parco al Pollino chiede nuova documentazione perché c'è una determinazione del parco che dice no, noi non siamo convinti della compatibilità ambientale. Altre 3 conferenze di servizi in sede consultiva e altre 2 in sede decisoria, e alla fine l'Enel dice: sono passati 10 anni, anni, ragazzi, io devo chiedere un giudizio nei confronti della provincia di Cosenza, perché voglio la conclusione del provvedimento. Cosa devo fare? Continuare ad accantonare risorse per investire, per aprirla sta benedetta centrale convertita a dare lavoro e produrre energia, oppure no? Ecco, nel frattempo, da allora si sono susseguite e quattro diverse impugnative, due diverse pronunce del TAR. Attualmente siamo in attesa dell'udienza di merito, che si deve tenere il 17 luglio 2012, che è stato fissato con un'ordinanza del 20 aprile 2012 dal Consiglio di Stato di fronte a tutte queste altre impugnative, e il 17 luglio capiremo se passa o meno il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, disponendo sino a tale data il divieto di trasporto di biomassa. Quindi nel frattempo, dopo 11 anni e mezzo, siamo in una selva pressoché incomprensibile. Naturalmente gli occupati non ci sono, l'energia non si produce e l'Enel sta pensando di salutare tutti e andarsene. Di casi come questi ce n'è un'infinità in Italia, e sono la fotografia di un paese che si spara in mezzo alle gambe dicendo che vuole crescere e lavorare. Le sue regole sono incompatibili con tutto questo. Allora, parliamo di regole e di settore pubblico. Abbiamo la RAI, la nuova gestione della RAI, e abbiamo alla nuova gestione della RAI, incardinata sulla tarantola ex responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, un giornalista straniero che si chiama Wolfgang Achtner, quindi apparentemente più un tedesco che un americano, che ha collaborato però con CNN, ABC News, è stato corrispondente per l'Italia e il Vaticano presso la stampa estera in Italia. Nella gestione precedente la RAI, come in questa, ha mandato una bella lettera con un bel curriculum vitae che documenta tutto quello che ha fatto come giornalista per molti anni, dicendo: io sono, mi autocandido, vi chiedo di esaminare la mia richiesta e i miei titoli alla guida del TG1. Dite sempre che volete cambiare le cose in questo paese, mostrate che farete una nomina che non dipende dai partiti, dalle valutazioni dietro le quinte di chi è più amico di chi. Prendete un giornalista straniero che ha fatto questo, questo e questo, e fate capire a tutti se davvero cambiate i criteri con cui fate le vostre scelte. E con noi Wolfgang Achtner, lo saluto e lo ringrazio, buongiorno. Buongiorno Oscar. Come mai? È un amore per l'Italia o un amore per il paradosso quello che ti ha spinto a mandare questi documenti? In realtà è la prima cosa, e tu hai ragione riguardo al nome, l'origine austriaca. Mio padre era nato nell'impero austro-ungarico nel 1901, ma io da ragazzo sono poi cresciuto in Italia perché mia madre si è risposata con un italiano, e questo alla fine degli anni 50. Io ho avuto modo di conoscere le persone che hanno contribuito alla ricostruzione del paese, alla crescita, a un'Italia che funzionava. Più tardi, lavorando, ho avuto il privilegio di conoscere persone come Falcone e altri, e ho sentito che era obbligatorio per me cercare di dare una mano in un campo in cui avevo delle capacità e in un campo in cui l'Italia aveva bisogno di qualche cosa di nuovo, cioè di una buona informazione televisiva. E questo perché sin da quando nel 1980 ho iniziato a lavorare per la ABC News, ho potuto poi confrontare i telegiornali italiani con quelli che vanno in onda in altri paesi, e mi sono potuto accorgere, facendo il confronto, che quello che va in onda qui con l'informazione ha molto poco a che fare, molto di più con la propaganda, e in più era dal punto di vista tecnico assolutamente scadente. Nel tempo le cose sono peggiorate, perché siamo passati alla lottizzazione di tre reti, poi alle situazioni dove Berlusconi controllava parte, altri controllavano un'altra parte, ma l'informazione per i cittadini non è mai uscita, e io credo che sia una cosa fondamentale, perché le statistiche dicono che una maggioranza degli italiani ha come prima fonte di informazione la TV, ma addirittura sempre una maggioranza di italiani ha come unica fonte di informazione la TV. Per cui io credo che dare agli italiani una buona informazione televisiva, confrontabile se vogliamo con quella della BBC o di Al Jazeera o quella che c'è in Germania, è qualche cosa di fondamentale, ma soprattutto permetterebbe poi di recuperare quelle forze all'interno della RAI che negli anni sono stati emarginati perché non erano disposti a fare propaganda, sarebbe qualcosa che permetterebbe alla Rai di recuperare credibilità e magari anche di fare i soldi, visto che l'audience, credo un vero telegiornale, se ne prenderebbe gran parte. Eccoci tornati qua in studio per la conclusione. Ricordo a tutti che io torno il 20, sole due settimane. Arroventatevi con lo spread nel frattempo, e Fabi tenterà di spiegarvi che non tutto è perduto. Naturalmente lo ripetiamo da un po' di troppo tempo per non capire che in realtà molto è perduto dell'onore e della credibilità dell'Italia, molto. E la colpa è di coloro che continuano a trafficare, se è più importante sapere se si devo alleare Tizio con Caio invece della sostanza di quello che dovrebbero fare. Il governo Monti ha rappresentato per loro una grande possibilità di tirare il fiato. Pensano che gli italiani dimentichino che la responsabilità è di chi ce l'ha davvero, perché negli anni ha fatto aumentare la spesa, le tasse e il debito, e la credibilità dell'Italia è andata dove è andata. Molti di voi sono intervenuti come sempre in ascolto contro Tobias Pillner, il cattivo tedesco che con l'accento vi ricorda e vi fa urticare di fronte al fatto che la politica ci ha gabbati, ma siamo noi e siete voi che pagate le più tasse per più spesa, più debito, non Tobias Pillner, e questo dovremmo ricordarcelo. Wolfgang, naturalmente il tuo è un gesto di cui ci hai dato le ragioni e che contemporaneamente è provocatoriamente volto a ottenere le non risposte che hai puntualmente ottenuto. È una puntuale riproposizione del fatto che anche i migliori in Italia, di fronte a questo coacervo di regole, poi si sono in difficoltà. Cioè non è che nessuno ti abbia detto, anche alla Taranto, sa che le dico, caro Wagner, lei mi ha dato una buona idea e imporrò a noi stessi, cioè al nuovo consiglio di amministrazione, di scegliere i direttori con una procedura totalmente diversa. Metteremo anche due manchette, una sull'Economist e una sul Financial Times, per fare un concorso aperto. Purtroppo non ti hanno risposto così. Beh, ancora no, ma per questo nuovo CDA, diciamo, magari è presto. L'altro non mi ha mai risposto, perché ovviamente una proposta come la mia sembra provocatoria, ma molto peggio se è seria, è qualcosa che può scardinare un sistema dove solitamente le decisioni di questo genere, dei direttori di rete e dei TG, vengono prese dai partiti in separata sede e poi comunicati al CDA, che ci mette un timbro e via. Quello che vorrei dire è che in Italia, prendiamo per esempio la Ferrari, se si vuole vincere si prendono gli ingegneri migliori che ci sono in giro, a prescindere dalla nazionalità, si cerca di fare una squadra con piloti più bravi, anche se sono stranieri, e poi si vince. È strano che l'unica eccezione in cui questo non vale sia il campo dell'informazione, dove invece che cercare le persone migliori si cercano solo delle persone cosiddette affidabili, che sono disposti di volta in volta a fare propaganda per Tizio, Caio, Sempronio. Wolfgang, i camerieri si cercano, perché siccome in un'azienda occupata dai partiti, quale è la RAI, si fa carriera a seconda di chi vince pro tempore, è ovvio che questo spiega perché c'è tanta politica chiacchiericcia nei TG italiani. La mia opinione è che il servizio pubblico andrebbe bandito tramite regolare gara a tutti coloro che vogliono gestire. Impegni in cambio dell'impegno, ovviamente, di certo tipo di programmazione con meno pubblicità e informazione pluralista. Io sono per un meccanismo di gara e attraverso questo privatizzare il servizio pubblico, che resterebbe e resterebbe davvero servizio pubblico, a differenza di questo. E a fianco ci metterei una bella legge sul conflitto di interessi, perché c'è anche l'altro pezzo dell'informazione, la abbinata secca che trovate, cari ascoltatori, come i punti per risolvere la questione dell'informazione italiana nei 10 punti programmatici sul sito www.fermareldeclino.it. Continuerò a ripetervelo: la nostra è una piattaforma aperta, non è la nascita di un partito, è la ricerca di vedere quante migliaia di voi, per il momento siamo arrivati a 15.000 in 4 giorni, vogliono condividere un'associazione per cambiare dal basso l'agenda del paese, riprendendoci la dignità di cui ci hanno spogliato, derubandoci come contribuenti. Avete capito? Questo è il nostro piccolo, serio argomento. Io alzo la voce solo quando vi ricordo in cambio di che cosa abbiamo perso la faccia: di essere spogliati e trattati come miserabili sudditi. Anche sulla RAI capita così. Quindi viva Wolfgang Achner, tutta la vita viva chi dall'esterno ci fa toccare con mano le vette, gli abissi di miseria in cui la spoliazione partitica ci ha buttato. È inutile che poi voi nella reazione dite i cattivi tedeschi. Guardiamoci allo specchio, guardiamo che cosa noi accettiamo oramai dalla politica italiana. Massimiliano da Milano, prego. Massimiliano, come la pensa? Volevo andare un attimino controcorrente, perché io sentivo il suo amico tedesco Tobias Pillner, sì. Beh, io poi i tedeschi ho molto a che fare, li conosco bene, quelli che li ammazza è il superiore che compre. Allora, se qui parlare di Germania virtuosa è quantomeno improprio, stiamo parlando di un paese che c'ha, noi abbiamo il 110-115% di debito sul PIL. 123. Loro hanno l'80-85. Sì, sì. Leggevo un interessante articolo su Deutsche Zeitung 4 mesi fa, me l'aveva segnalato un amico, che se lo calcolassero come lo calcoliamo noi avrebbero il 110. Sì, verissimo. Allora, si parla di forza relativa, cioè non si parla di virtù, cioè se io e lei esercitiamo il mestiere più antico del mondo, io no, per otto ore, Massimiliano, e lei per sei, Massimiliano, lei parla, non è più virtuoso, Massimiliano, ma no, non può, queste sono cose che non si, qui non sono opinioni, senti. Il 2001 stavano peggio di noi. Al 2007, prima della crisi, sono arrivati con 6 punti di PIL, di spesa e tasse in meno, hanno cambiato la finanza pubblica, hanno rivisto un bel po' di roba in cui buttavano prima soldi pubblici e hanno cambiato le regole di produttività in tutte le aziende. Queste due cose gli hanno fatto guadagnare competitività e adesso ci danno lezione, anche se il loro debito pubblico è salito molto. Però quella roba lì l'hanno fatta, Massimiliano, o no? Ma se loro pagassero... Allora, che noi abbiamo immensi margini di miglioramento, questo è pacifico, ma per carità di Dio. Che però siano i tedeschi il punto di riferimento. Ma io non ti dico di no. Questo, io quello che intendo dire, se voglio sì, no, arrivare ho a un capito, punto, questo è, diciamo, so che a lei questo è un discorso che non piace, però un mio amico si è trasferito in Germania con l'azienda, gli hanno raddoppiato il fido al 2%. Sì. Questa è una guerra economica. Sì, lo è. No, ma questo sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma la vince chi è più forte e la perde chi è più ipocritamente debole. Questo è il problema. Non è che ce l'hanno messa nel culo loro, regalandoci i governi che hanno fatto l'opposto di quello su cui la gente gli batteva le mani. Li abbiamo scelti noi. Questo è il piccolo problema. E naturalmente io capisco. Dice, nel frattempo però ci fanno la guerra. È vero. Quanto si può andare avanti con imprese che devono incorporare quelle italiane 500 punti di base in più del credito quando c'è ancora il credito? Pochissimo. In questo Massimiliano ha perfettamente ragione. Infatti o si pone in mano in breve a un riequilibrio oppure poi salta per aria e saranno gli esiti di una guerra economica. Io la penso come Massimiliano. Che pensa Luca da Modena? Salve, allora io avrei la presunzione di aver trovato un sistema per abbattere il debito pubblico italiano. Luca, allora ti chiedo di mandarmelo per mail e ti prometto che siccome quando torno continueremo a parlarne, vedrò di coinvolgerti, perché adesso nell'ultimo minuto la versione personale è solo per evitare troppo poco tempo e poi lavarti la linea. Io, cari ascoltatori, ringrazio Wolfgang Ackner, la sua non è una provocazione, quella di autocandidarsi al TG1, ma è secondo me la maniera attraverso la quale consente a tutti e soprattutto ai nuovi vertici dell'azienda di riflettere concretamente su quali svolte assumere. Credo che il sistema dei partiti non consentirà queste svolte. Vediamo se mi sbaglio e vi auguro in queste due prossime settimane, senza di me ma con Gianfranco Fabi, di avere naturalmente un interlocutore più equilibrato, lo è rispetto a me. Anche oggi molti di voi hanno insultato, hanno detto che io devo stare zitto, voglio continuare ad aprire centrali energetiche, io voglio il nucleare di qua di là. Non avete capito che se l'energia va prodotta, voi siete molti di voi convinti che lo Stato deve assumere tutti e non consumeremo energia e non produrremo più niente. Mi dispiace, non sarà di questi temi che continueremo a parlare quando tornerò tra 2 settimane, il 20. Intanto buone 2 settimane.